Ui, biondo. Allora, come la va? Un piedistallo. Cazzo, come la va? Su piedistallo. Io l'ho arrombata al muro perché non avevo il cavalletto. E se vuoi che ti ho portato io il cappello per salire. Ehi, ripega là, sono impacciato tutto e non mi è toccato nulla. Ma in compenso mi ho fatto una bella pasta ai fagioli oggi, a livello. L'ho fatta buona, è bella densa, ci ho messo il lardo, cioè le patate, una bomba è uscita. Prendetene e crodiatene tutti. Cazzo, prosciutto, patate quando c'è. Isso cazzo, a me fa mezzo gubbazzo. Mi è entrato Marcolino Condo. Avanti Marcolino. Ciao a tutti, io ho difficoltà a copiare Emanuele, perciò dei segnaloni che lo pari al suo che non lo fanno passare. Per quello fagioli mi, pancetta, voglia l'effetto gas, mi. Ti puoi fare l'impianto a gas a casa, altro che metano. No, io non lo sai come l'ho fatta, non ne ho messo pancetta, gli ho messo il lardo, gli ho messo. Però l'ho bello pulito, l'ho tagliato a striscioline, poi gli ho messo le patate per farla bella densa, ma ora anteci da Roma. Ho messo la penna di peperone, di peperoncino, pepe nero, è uscita una belva, guarda, mi sono fatta beffa. Bravo Natalino, bravo, già ti tratti bene. Dai, io vi ascolto che devo operare a cuore aperto. No, non lo fare, io quando fai così ti temo. Marco lì, sto cercando uno di quei rosmetri come quello che c'hai tu, cazzo. Luca non me ne ha voluto vendere, maledetto. Ma tu avevi il Diamond, no? E l'SX cos'era? 100 può essere? No, l'SX 200. Poi c'ho il coso, come si chiama? Il TM1000. Però siccome ho le cataratte non vedo un cazzo, sto cercando uno di quelli finché non mi operano un casino. Occhiali non me ne ha potuto ordinare perché ho le cataratte, capito? Sono dovuto andare a pagamento e mi serviva un rosmetro che avesse lo schermo grande. Sì, poi illuminato è spettacolare quello. Allora, Emanuele, se mi copi riprendi. No, aspetta, sicuramente si è spostato per togliersi la divisa che è appena arrivato. Ah, fate fine turno, io. E così, stasera ha fatto una spesona da 150 e più euro, perché eravamo senza niente, poi dei gatti, solo dei gatti. Caspita, come se ne in quattro persone, qua, altro che due persone. Insomma, ho fatto un po' il piano di tutto, dai. E io devo andare a rovinarmi lunedì a fare la spesa, cazzo, che non c'ho più un cacchio qua. Mi ho mangiato tutto. Sì, c'è un po' di splatter da quello dell'11 americano, quello che sempre arriva forte e parla in quel modo splatteroso, dai. E ho capito. No, io ho messo lo squelch e non senta nessuno. E io gli dicevo brutto, Santiago 6, quando parla con la fianco anche 7, mi arriva un po' il disturbo e Emanuele circa 7 me lo copre. Capito? Perché è troppo larga l'emissione di quell'americano, capito? Prende tre canali, poi lui sta trasmettendo sull'11, sul 12 e sull'11 alfa. Un'ultima cosa. Non lo so, chissà quanto sarà pompando. Cosa vuoi che ti dica? E sto cercando uno di quei rosmetri così, cazzo. Sto cercando. Anche le CX200 è illuminato. Gli ho messo un LED bianco io, la sala luce Grazie, che fa? Auroso. Io. Non lo so se riesco a farmi mettere in lista fra 6 mesi quando vado a fare l'altra visita per operarmi alle cataratte. Mi ricordo che c'era un... E quindi finché non ti operi occhiali non... Piuttosto, le cataratte risolvono quel problema lì, ma poi la miopia rimane? O risolvono anche quella? Fanno tutt'uno? No, non ho miopia, io sono astigmatico ipermetrope. No, io non vedo, non perché gli occhiali non vadano bene, è perché ho le cataratte che non vedo da vicino. Sì, ecco, ipermetrope astigmatico, sì. No, io ho miopia. Infatti, bastano pochi metri, scusa, non riconosco la persona, a pochi metri. Ho messo la posta, la roba, ho messo la posta alla spesa, abbiamo mangiucchiato qualcosa, e così, da, adesso volevo mettere, è presente il 3009, no? Il display blu. Volevo rimettere il ponticello modalità 40 canali, in modo da omologato, se voglio me lo porto in macchina, capito? Ma chi ti controlla? La Garussi, non ce n'è più di controlli di quel genere. Qualcuno diceva che potresti trovare anche in via San Paolo, tipo, che sono due macchine, una della stradale e una della postale, non so. Cioè qualcuno che ho io, magari la volta che porto il baracchino non ho omologato in macchina, la volta che mi becca il controllo, ed è un controllo anche assieme alla postale. Se immagini, e lì sei, ci ascolti, si mette direttamente a 90 gradi o come facciamo? Perché è vero, è questo della... questa storia qua. Ma la postale non ce n'è più, noi non paghiamo noi concessione, né un cacchio più, ma che cavolo. Poi sai cose, sono talmente remote le possibilità, perché uno una volta ogni morte di papa si mette il baracchino in macchina, tanto quando lo porto non c'è mai un'anima, può essere la mattina o la sera, non c'è mai nessuno la volta che lo porto. Ma magari ti capita, vabbè, se pensi a quello non fai nulla. E se non fallo, e così ce l'hai omologato, 40 canali e boh. La base d'asta è di... E almeno sei più sicuro, ma cattiv bemma. Tanto ne ho due, di 3009, no? Uno omologato, posso lasciarlo, l'altro... già bello pompato, cioè più libero, dai, già capito, anche con un vaffione più aperto. I watt sono quelli, però 4 watt e 12 watt. I watt vanno lasciati originali, perché in modo da poter pilotare è qualcosa nel caso. E infatti, e a dirla tutta, mi stava tentando di nuovo il 3009 del 2023, quello che praticamente è un 5555 o giù di lì, però con la buccia del 3009. Io non avrei speso manco 5 lire, ne hai da buttare dei baracchini. No, ma infatti poi per non entrare sarebbe, cioè, inutile prenderlo per non entrare, perché io tra poco già lo sai. Cosa? Perché non dovresti entrare, non ho già compreso. Quando c'è tempo entra, che cazzo se ne fotte? No, appunto, quando ho tempo, così ogni tanto, però poi, insomma, bisogna sapere anche di cosa parlare, non so. Così, dai, siamo sempre 4 gatti, alla fine è così, minata lì, cioè... Le ruote sono proprio risicate, 4 gatti, c'è forse anche 3 gatti, quando non siamo 2 pure. E già entrano la gente, vedrai. Beh, perché se non entri tu, non entro io, non entra Guido, alla fine muore del tutto e ci buttiamo tutto. Sì. Eh beh, tanto vale, sta così, la 27 è anche vero che è anacronistica, Natali. È una cosa anacronistica. Ma che vuoi che ti dica? Certo, se non c'era la passione ci avrei buttato tutto. io continuo a entrare. Cioè, mi dispiacerebbe se non dovesse entrare più nessuno. Prova a chiamare Emanuele se ti copia, se è rientrato. Sì, già entra quando ha finito di spogliarsi. Emanuele, sì. E magari è andato a mangiare qualcosa, se è tornato da lavoro sarà affamato. Sì, boh, non lo so. Comunque, già entra quando ha finito di fare il tipo. Un altro lavoro bello quello, mi piace. Mamma mia, tutte quelle ore. E a quanto ho capito sono ore da massacro, cioè non sarebbe nemmeno né legale né salutare per la propria salute tutte quelle ore di fila. E io ne ho sentito parlare anche di un mobilificio noto recente che faceva fare orari 18 ore, 20 ore, che cose da fantascienza sono state viste lì dentro, cose da fantascienza. Sì, tu pensa, Emanuele, è in giro dalle 5 di stamattina fino adesso. Dalle 5? E allora, non lo vedi che fa più di 12 ore? Sì, io ho sentito anche 15, lui aveva detto una volta anche qui fino a 15. Ma stiamo scherzando. Quando sei lontano, sì, perché ci sono anche le ore del viaggio, e quindi arrivi anche a 15 ore. Vabbè, sì, se conti anche quello, dipende dove lo mandano. KK, vedo che l'antenna regge, aspetta contro le stazionarie. Un e uno, qualcosa più di un e uno, 1:15, 1:15, tra 1:01 e 1:02, da. Sì, sì, no, come se fosse cambiato qualcosina, magari il cavo è stato arrotolato male, perché poi se lo rotoli tipo facendo bobina ti altera un po' i parametri. Sì, a comprarlo nuovo, Cata, non fa, perché lo vogliono un sacco di soldi quello che metto così. Eh sì, ma se compri, guarda, quello da 2 kW, tanto chi li userà mai 2 kW, o 3, quello da 2 kW costa meno di quello da 3 kW, stiamo parlando di kW, cioè non ci tocca quel problema. Infatti quel problema non ci tocca, no, che là 3 kW. E poi chi li usa? Certo, sto uscendo con 2 watt, io, figurati. E io lo stesso sono 3,5 di apparato circa, più il filtro che già ti toglie un watt circa, più tutta la calata che ti toglierà un altro watt, ci avrò un watt e mezzo di antenna, massimo 2, massimo. E quindi siamo lì, dai. Il barilotto, e dove lo metti il barilotto che ho fatto? L'altro giorno l'ho aperto, mi. Tutto un pezzo di ossido unico, ho dovuto aprire con le pinze i PL, tutto pieno d'ossido, perché non ho stagnato. Allora ho usato quello disossidante lì, l'ha tutto pulito. Quando finalmente finiranno il palazzo definitivamente, io lo pulirò benissimo, i due PL e il barilotto li pulirò bene, e poi li stagnerò con l'autoagglomerante. Ce ne vogliono da buttare di quello. Sì, anche a me me ne era avanzato. Io ne avevo comprato un carascio la volta che avevamo piazzato l'antenne, figurati. E vedo che è sempre perfetto, in perfetto stato. KK. Ne ho anche regalato di quello lì. È proprio per questo che di vulcanizzante. Attività commerciali. Ascolta, quella persona. Va bene. Sta un po' meglio oppure. Sì, boh, non lo so. Non l'ho sentito più. Mamma mia, guarda, una cosa così inaspettata e tragica. Emanuele, sei tu, sei rientrato? Sento uno che fischia, un po' basso. Chi è avanti? E ho messo appena appena di squelce, Natalia, anch'io per non sentire questo fruscio. massimo ora in fondo, dai. Poi che altro? Vabbè, io volevo che parlaste qua sul canale, mi ascoltavo e mi aprivo quell'apparato, rimettevo tutto, spostavo il jumper con le pincette e tornava a nature. Sì, vabbè, ma se non venni giù una va, entrano tutti dopo le sette, cavolo. Se non è fatta apposta, quando uno se ne deve andare, a chi ha visto da magno? E quindi... ascolta e boh. E tu, ma tu adesso mangi, no? Tanto che ora è 7:15, ci sono? Sì, le 7:15 sono. Oh, azzeccato. Adesso mangerai, se sennò ti lascio andare, Natali, così io faccio quello che devo fare. Eccetera. C'è un fischio che chiama, forse non mi copia a me, che ho troppi pochi watt. Prova a chiamarlo tu. Avanti sul canale 10. Ehi, avanti, chi è che fischi? Quando lo scambio. Ciao Luca. Luca, ma non ha venduto tutto? Infatti questo è quello, sono in vendita, un 757 GX con il suo alimentatore colonnina. Su che andiamo, che lo sto facendo le ultime prove. Ciao Luca, abbassa un po' però, che è troppo. Abbassa, un passaggio più lungo, che mi pare sempre gli assi. Ora, aspetta, abbassa ancora, guarda, adesso va meglio? Sì, adesso sì. Ma lo fa solo da me che il segnale di Luca sale e scende? No, non lo so, non l'ho guardato il segnale. Parla Luca. Parla con la 3, come Marco. Ma qua passa da 9:05 a 9:15 o più. Ma potrebbe dipendere da me, di? Potrebbe. Io vedo i picchi di modulazione e basta. Di Luca. Magari erano quelli, mi. Sì, può darsi che siamo quelli perché sono notevoli. Notevoli come picchi di modulazione. Molto notevoli. Come che mettessi che adesso uno o due watt di portante a muta e tutto il resto modulato, mi. 3 watt di portante a muta sono, Marco. Quanti? Con lo smetto di Natalino. Sì, sì. Vai, fate un bravo, io te la volevo comprare, non me ne volevo vendere. Ho detto sì sì, già sono i picchi Luca. Aspetta, di 180 lo sto dando, lo sai, io lo sto regalando a quel prezzo. Qual è? Il 901. Tipo, non so manco cosa sia. Quale sia? Io non lo smetto mai. Il Daiwa 901. Ha capito. E io quale ho? Io c'ho quello da 2 kW, come si chiama? 801 per caso? Tu avevi preso il 901 insieme dopo di me. Quando ti ho mandato la foto te ne hai innamorato e te l'hai comprato anche tu. Allora sì, eccolo qua. Allora CN901. Non HP però, tu hai l'HP, c'è la corda 3 kW, io ho quello per soli 2 kW, mi basta, 2 kW già li uso, sì, togliendo 3 giri però. Sì, a voglia. Ascolta, pagando, no, come parliamo in privato. Natalino, Natalino, non posso regalarlo, cazzo, darlo a 100 euro o 150, c'è l'imballo, è nuovo, cioè. Sapete cosa hanno detto dei radiatori americani? Non so se li abbiamo in negozio provati, ne hanno tolti una decina e solo misurati, no, misurato con carico fittizio di watt di apparati, dice che non ce n'era uno uguale, cioè anche i Daiwa non è che sia roba professionalissima, dice non ve ne era uno uguale all'altro. Sì, l'avevo visto quel video. No, però non era un video, era un forum di radiatori americani. E dice che appunto volendo essere piglioli il Daiwa sì è infinitamente migliore in ZG, quello non c'è dubbio, però non è professionale, giustamente come le cose professionali che paghi però qualche migliaio di euro penso, Rode, Schwarzau o quant'altro, dai. C'è anche il Bild, molto professionale anche quello, vecchiotto però professionale. Sì, è quello che ha le cose intercambiabili, come si chiamano? Uffa! Sì, ce ne sono le sue, sì. Da 200, 500, 600, 1000, eccetera. Il 1043? Sinceramente però non mi piace più questo. Il 1000 ce l'ho fatto, metterò me. Appunto, mi piace solo più questo, che chiedo che costava molto di più, però questione di scelta. Quello è solo vatt, metterò il 1000. Perché l'altra sarebbe stato un successo. Capito. È per usi professionali. Ah no, infatti sì, no, ma questi radiatori hanno misurato solo i watt degli apparati, no? Con un carico fittizio. Ci avevano vari CN901 o 801 che sia, ne avevano vari, nuovi, forse tolti dalle scatole, non ti capito, giusto per... i watt segnati tutti diversi, però ricordati che se cambiano i watt ti cambierà anche un po' la lettura delle SVR, male, molto male. Poi si possono tarare, si puoi tarare alla perfezione, però su cosa li tari? Cioè devi avere anche uno strumento super professionale che segni i watt ed SVR in modo da farlo uguale, da fargli la lettura uguale. E solo il carico fittizio ci vuole per poter tarare quegli apparecchi lì, ci vuole il carico fittizio. No vabbè, ma per i watt, cioè la casa ti dice apparecchio 4 watt, poi magari è 3, 3,5, 4, 4,5, e come fa a sapere? Ci vuole uno strumento professionale di riferimento e poi puoi regolare il dive, ma visto che il problema non si pone perché noi strumento professionale non ne abbiamo e non possiamo fare tutto, non possiamo fare questa prova. Ma ti vende una KP1000 al Matteo Brigio di Ghiso, ma va? Io ce l'ho la KP1000, capito? A me mi serve una cosa, ma lo sapeva giù di Cattaratti e non per un cazzo, ma Ghiso da vicino. Perché la vita deve essere così complicata. Allora, qua la cosa impagabile del dive è che ad aghi incrociati, cioè tu cambi canale dall'1 al 40, cambi banda sopra, sotto, non devi ogni volta fare il rognosissimo fondo scala, no? Premi e lettura diretta. Infatti. No, non mettiamo una canzone, ragazzi, si sta facendo tardi. Infatti adesso me lo prenderò nuovo, con bago chi su chi è, ma me lo piglio nuovo. Allora, io... Non posso pagare una cosa usata a 180 euro. Ma Luca non lo sta vendendo, no? No, non te ne vende lui. Cazzo, l'altra volta lo stava vendendo, ha messo così, ma per scherzo, io ho detto, ok, ti rubi giù io. E ha detto, mi ha detto che l'aveva già venduto, ma non da Mini, ho preso. Ah, vai, un biglio e mi recupero giù nuovo. Mi raccomando, non mi carico la carta e me lo ordino. Perché c'avevo l'MFG che è molto meglio del Daiwa, però è piccolo, è inutile, a me mi serve una cosa con lo schermo a mano. Poi se me lo voglio fare già ne ho due di carichi, cioè quello da un chilo va tutto qua. Sì, ricordati che l'MFG che abbiamo avuto, che sto ancora piangendo io, disperso in azione, era veicolare, sostanzialmente era uno strumento veicolare, quindi molto limitato come i watt, per quanto riguarda i watt, e poi piccolo da leggere come strumento. E ricordo una cosa, che col misero linearetto 747, 203, quelli lì, no? Come mettivi già potenza massima? E tendeva a scintillare, lo sai, la sezione accordante. Aspetta il telefono. C'ho anche il SX200 qua illuminato, ragazzi, gli ho messo un LED bianco, guarda la luce che fai, Luca. C'ho il TM1000, il TM1000 è questo. Sì, già sono belli quelli. Anche invece il 1000 della Rosnet. L'SX1000 che fa fino a 1200 mi sembra, fa 0 a 1200 in pratica. Sì, già lo so, ma io me l'avrei messo più vicino il Daiwa, perché c'ha lo schermo grande. Vedi, il TM1000 già riesco a leggerlo, però è minori sempre. Adesso sto mandando. Mi capi buccio, ma io buccio, dai, vai no, fino a taro. E così avrei letto subito, senza stare lì a tirare la lunga. Cazzo, non mangio buoni la lente ogni voce, no? Ho fumato Bucarello, 2,20 più 12 di spedizione, 2,56 più 7,99, cazzo, lo voglio dare, 180, non lo vuoi. Ma cosa gatto che tu non me ne dai? Cosa sei rompendo di cazzo? L'altra volta i vendenti l'ho fatto per scherzo, non lo do questo. Non lo dai perché giustamente ti serve. Ecco, domani mattina vedi con quei soldi a vedere se te lo do. E vai. Cazzo te lo do. Stiamo organizzando in affari, non hai visto, c'è anche l'imballo. Il caos è nuovo. Non ha graffi, non ha niente. Sembra? Sono qui. Ero al telefono. Ma Luca è andato via, ho visto la foto, Luca, se ci sia ancora, è uguale al mio, identico, non è quello da 3 kW. Ma Luca è andato via. Luca mi ha dato risposta. Luca sta sempre creando, sta sempre facendo roba, circuitini, cose, non decoupage, come ricopre di quella vernice strana le cose, e sempre quindi è bene, bene, è giusto che sia così. Ma mi ha detto, state entrando, che non c'è un'anima qua, io certe volte accendo, proprio un minuto, due, cinque, accendo, tutto deserto. 23 deserto, qua deserto, 12, vabbè loro entrano tardi quando io non ci sono, cioè mi guardo la TV, film miei, serie TV, eccetera. E quindi è stato entrato ben poco in realtà. Così può essere un giorno che vi trovate tutti, però poca roba. E poca roba, che vuoi che ti dica? Vai a mangiare. Aspetta un attimo. Luca Piper, ci sei. Vediamo. Prova. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perché il PL è sempre mezzo svitato. Bu. Three.